le 21:05, 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì e quindi anche per oggi 31 gennaio del 2018. Il contatto telefonico è 0649 1750, il sito internet è sempre quello www.ondarossa.info. Per ascoltare attraverso lo streaming e per leggere le notizie contenute nel sito stesso. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Relativamente a questo programma, invece, domani ci sarà il podcast e la playlist che, oltre a comparire sul sito stesso della radio, comparirà sulla pagina Facebook del programma, che è Prove Tecniche di Trasmissione / Disorder. Per sottoscrivere c'è il conto corrente postale 6180401, intestato a Cooperativa Culturale e Laboratorio 2001, Virevolci 56 00185 Roma. Nel sito ci sono anche le modalità, diciamo, più elettroniche, carta di credito, eccetera. Il palinsesto prevede intorno alle 22:30, 25 o'clock. Cominciamo con il salutare Raffaele Pezzella in quel di Napoli, affezionato nonché anche, diciamo, anche protagonista e conduttore a distanza di questa trasmissione. Un saluto anche ad Alessandra, qui da Roma. E noi iniziamo con Foundation Hop, questo progetto che abbiamo riscoperto la scorsa settimana. Un album del 2008, praticamente l'ultimo, come quantomeno come Foundation Hop. Si chiama Our God is a Consuming Fire, un album che usciva per una label lituana, la Autarcheia, che per un breve periodo stampò diversi lavori proprio dell'area più dark ambient. Salutiamo anche Giovanni da Bari. E Like a Wake qui da Roma è immancabile. Tornando a Foundation Hop, ci ascoltiamo Blooming Steel e Demiurge. Autumn Serenade. Wandered tappeti ultra rarefatti congegnati da Foundation Hope nella persona di Joop Smalling, artista olandese, un album che uscì nel 2008. Questo Our God is a Consuming Fire effettivamente ha anche adatto in un eventuale thrilling tipo Shining, per esempio, di Stanley Kubrick, come giustamente annotava Raffaele. E comunque molta di questa musica, così diciamo dark ambient, si adatta perfettamente in uno scenario cinematografico, magari o gotico o horror, o quantomeno un film incentrato sull'inquietudine interiore di chi che sia. Dicevo, un album che usciva per l'Autarcheia, questa etichetta della Lituania, anche se ultimamente la osserviamo una certa assenza da parte dell'Autarcheia, ma per un periodo invece stampò parecchi lavori, soprattutto di artisti che provenivano dalla Cold Meat Industry. Andiamo nella piena Scandinavia, approfittando di Northern Lights, The Scandinavian Experimental System Survey, compendio ideato e congegnato e assemblato appunto dal buon Raffaele Pezzella. Tanti sono i nomi, i gruppi, le musiche e le atmosfere che si possono trovare in questa opera, e stasera ho scelto questa Shortwave Radio Orchestra. Notizie assai scarse, forse Raffaele ci sarà utile. Non so se è un progetto, diciamo, plurale oppure un singolo artista. La traccia è alquanto strana, il nome, diciamo, Ujowa, prendetela così, numero 2, per Shortwave Radio Orchestra. scoperto l'arcano dunque grazie a Raffaele. Shortwave Radio Orchestra nasconde il nome di Marius Sortland Mecklebust, artista norvegese. Approccio visionario, anche questo effettivamente sarebbe adatta come sonorizzazione, come si suol dire, un termine magari opinabile ma viene anche usato come diciamo un sottofondo, un accompagnamento per un qualche film sempre abbastanza inquieto. Il tutto estratto da Northern Lights, questa compilation del 2016, quindi ha già 2 anni. The Scandinavian Experimental Synthesis Survey, una delle tante ideate da Raffaele Pezzella, che abbiamo anche apprezzato in passato come sonologist e lo faremo anche in futuro, andando anche a sentire dei lavori proprio di sonologist. Salutiamo il Ramingo qui da Roma, Riccardo da Taranto. E tanto per rimanere in Scandinavia, spostiamo un po' il tiro e andiamo un po' a trovare Björk in quel dell'Islanda. Ultimo lavoro che si chiama Utopia, che si muove tra il cosiddetto difetto digitale alias glitches, ambient EDM, un disco anche questo abbastanza inquieto, giusto per rimanere in tema. Cosa che normalmente fa Björk da qualche anno a questa parte, quando ha scelto la strada coraggiosa della sperimentazione, abbandonando un po' il limbo protettivo dei primi dischi, belli, intensi, ma dalla venatura decisamente più pop rispetto alle cose odierne. E questa sera è il turno di Siumi e Tabula Rasa. Curse, so it won't fall on us. Arto te vesh Enter to te vesh Enter to te Or let this sink into her DNA children. Una Björk alquanto gorgheggiante in questa utopia, utopia, anzi utopia. L'accento va in modo diverso rispetto all'italiano. Ultimo lavoro per Björk dunque, ci siamo ascoltati Siumi e Tabula Rasa, queste ottime stratificazioni vocali e le ottime altrettanto frammentazioni sonore che hanno caratterizzato questo disco uscito nell'ottobre del 2017 attraverso la fida One Little Indian, etichetta che da moltissimi anni accompagna e promuove Björk in giro. Suonerà invece tra un pochettino qui a Roma il Gordon Sharp, fondatore dei Cindy Talk, un progetto storico degli anni Ottanta. Allora Dark Industrial, poi dopo 15 anni di silenzio ritornato in una dimensione diversa. E decisamente più IDM e ambient. In questa circostanza si fa accompagnare Massimo Pupillo degli Zoo al basso in questo progetto dal nome Becoming Animal, all'esordio con un album dal nome Distant Hand Lifted, non molto distante dalle atmosfere Cindy Talk, con il fatto che il tutto è arricchito da un basso alquanto effettato. Ce lo andiamo ad ascoltare. Physicality. 10 cargo planes connect Hong Kong with Australia. They land each day at Port Moresby, and the cargo cult has its temples almost everywhere nearby. This is one. Its altar is standing 9,000 feet above sea level. The dummy plane is at the edge of the landing strip. At the other end, the control tower. The natives of the Roso and Mikhail tribes are waiting for some plane to land on their strip, attracted by the bamboo moth. They believe that planes come from paradise. Their ancestors sent them. But the white man, a crafty pirate, manages to get his hands on them by attracting them into the big trap at Port Moresby. You build your plane too, says the cargo cult doctrine. Wait with faith. Sooner or later, your ancestors will discover the white man's trap and will guide the planes on your landing strip. Then you will be rich and happy. Birds that roar up there above the clouds cannot but come from paradise. There are only their ancestors in paradise. Therefore, only their ancestors can have built the planes. Spirits of the deceased cannot know the white men. Therefore, all those wonderful things that the planes carry were meant for their descendants. They've left their mission. They've forgotten their prayers. And here they are, living faithfully at the doorway to the sky. Faithful spy, until the end of stars a faithless glowing sky. The busy lands a precious sky, it feels alive, it changes me, and let this glow. Let the stars

è In Becoming Animal, questo progetto insieme a Massimo Pupillo degli Zoo. Gordon Sharp in un certo senso ritrova la voce, una particolarità che era negli anni scomparsa in tutti i lavori. Infatti gli ultimi 5-6 lavori che hanno sancito il ritorno in musica di Gordon Sharp, la voce era pressoché assente. Qui invece è assolutamente protagonista in tutta la sua bellezza, almeno secondo il mio modestissimo parere. Un saluto a Mario Lino Stancati, altra intelligenza in ascolto, e a Nicola Locci della Sardegna, alias Stigmate. Questo era un 4 tracce dal nome A Distant Hand Lifted, appunto come Becoming Animal, un disco che esce attraverso la Trust Records, un'etichetta austriaca. Anch'esso esce nell'ottobre del 2017. Adesso arriviamo a Roma. Loro sono in Astro, una interessantissima realtà di sghemba elettronica caratterizzata da vere e proprie meccaniche seriali, un ribollio di suoni e veri e propri labirinti sintetici e stralunati, vera e propria caratteristica di Nastro. L'album in questione si chiama 300 metri quadri e noi andiamo a sentirci un estratto della canzone, diciamo l'ipotetico lato B. I'm gonna get it.